adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you made me love you. Quest'inverno finirà. And I do truly love you. Fuori e dentro me. And I do truly love you. I belong to you, you belong to me forever. Won't you, baby, I want you. And I thought that you should know. Su pensieri ripidi, you're my fantasy. Per solitudine e deserti aridi, you're my gentle breeze. Al ritmo della tua passione, ora io vibro. And I never let you go. Per te le paure che io sento. Quanto bruciano dentro le parole che non ho più detto, sai. Oh, I want you, baby, I want you. Adesso io ti sento. I will belong forever.